Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Lasciando l'Italia e venendo qui ho avuto più possibilità di lavoro, di indipendenza, eccetera, che in Italia sono un po' delle conquiste sempre molto difficili. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Anche oggi l'apertura del programma l'abbiamo affidata a una giovane espatriata che si è raccontata all'interno di un progetto che vi sveleremo tra due settimane. Oggi vi segnaliamo che sulla piattaforma online Matching collegata al programma sono attive due ricerche. Una laureando chiede informazioni per un master a Londra, mentre un giornalista cerca giovani espatriati di Busto Arsizio. Non spegnete la radio, oggi indagheremo gli umanisti che espatriano per trovare fortuna nel settore sempre molto ambito della comunicazione. Io sicuramente non ero raccomandata ed ho sempre ricevuto offerte di lavoro adeguate al mio livello professionale, quindi direi di sì che esiste la meritocrazia in Germania. Laura Abruzzone, 30 anni, è account manager a Berlino, della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Oltre la metà dei giovani italiani emigrerebbe all'estero, in generale ben 4 italiani su 10 si trasferirebbero fuori dal paese. A voler emigrare sono soprattutto i giovani, lo denuncia il rapporto Italia 2011 dell'Eurispes, Francia, Stati Uniti e Spagna i paesi più gettonati. Stipendi bassi, lavoro precario, zero prospettive, così l'Italia diventa per i giovani laureati un paese da abbandonare, lo denuncia il rapporto Inca CGL, secondo cui il fenomeno della fuga è in preoccupante crescita. In 4 anni gli italiani espatriati sono aumentati di 400.000 unità, per 2/3 si è trattato di neoemigrati. Tra il 2001 e il 2006 l'incremento dei laureati in uscita è stato del 53,2%, 3.200 l'anno. Il rapporto precisa, queste cifre possono essere raddoppiate. Molti italiani non si iscrivono infatti all'anagrafe estera, che martedì intanto ha confermato oltre 4 milioni di italiani residenti fuori dai confini. Nuovo record del tasso di disoccupazione giovanile, a dicembre è salito al 29%. E nonostante le difficoltà occupazionali, in Italia fatica a morire il metodo della conoscenza e della raccomandazione quali strumenti necessari a trovare lavoro. Per la Camera di Commercio di Milano il 38,7% delle aziende meneghine assume in base a segnalazioni di amici, conoscenti e fornitori. La percentuale schizza al 48% nelle imprese fino a 10 dipendenti. La media italiana è addirittura al 49,7%, assimilabile in Europa solo a Spagna, Grecia e Irlanda. Guardare al futuro con merito, questo è il tema del convegno che i giovani imprenditori di un'industria a Bologna organizzano per giovedì 10 febbraio. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: la Deloitte cerca economisti e analisti junior per la sede di Digem in Belgio, scadenza per i CV 2 marzo, info su careers.deloitte.com. Un capo del marketing e dell'e-commerce per il gruppo Adidas ad Amsterdam, scadenza per i CV 17 febbraio, info su adidas-group.com. E infine l'istituto parigino INRA cerca 53 scienziati e ricercatori per rafforzare il proprio team, scadenza per i CV 24 febbraio, info su international.inra.fr. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Germania, destinazione Berlino, una delle capitali europee simbolo della nuova emigrazione dei giovani italiani. La protagonista della puntata la conosce molto bene. Nome: Laura. Cognome: Bruzzone. Età: 30. Città di origine: Genova. Studi: laurea in lettere e filosofia presso la Technische Universität di Berlino. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2001. Per andare dove? A Berlino. Perché? Per studiare. Quale lavoro svolge attualmente? Sono PR consultant presso l'agenzia Schultz & Friends. Dove? A Berlino sempre. Tornerai? Dipende dove mi porterà la mia vita professionale. Ci chiamavano Gastarbeiter. Eravamo noi Gastarbeiter. Gastarbeiter, Roy Pacci, canzone che riprende il tema della storica emigrazione italiana verso la Germania. Laura, oggi voglio partire con te da una domanda di una semplicità disarmante che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it. Quando l'ho letta ho avuto la tentazione pure io di strappare il foglio e mollare tutto e andarmene anche io all'estero. Sergio, ma come si cerca lavoro in Italia? Hai scritto. Tu lo fai da anni dalla Germania e facciamo allora il lavoro inverso. Come non si offre lavoro? Perché le offerte di lavoro italiano sono sono parole tue assurde. Facci qualche esempio. Io cerco chiaramente online, nei più famosi motori di ricerca, e mi trovo spesso confrontata con annunci che non comprendo. Non ci sono indicazioni sul nome dell'azienda, non ci sono indicazioni sulla località. C'è un abuso di qualificazioni professionali, per esempio tipo sales manager account, e soprattutto c'è una specie di divieto di rispondere all'annuncio se non si vive a 50 km dall'azienda. In Germania è così? No. Partiamo dalla tua storia, Laura, molto interessante e particolare perché fin dall'università ti trovi a vivere tra due mondi, non anticipiamo ancora nulla, ti iscrivi a filosofia all'Università di Genova, ma con risultati un po' disastrosi. Cosa non andava a Genova? Si aveva la tenta sensazione che fosse un corso di laurea di serie B, le infrastrutture erano disastrose, dalle biblioteche, accesso a internet mancante, e soprattutto mi ricordo pomeriggi interi ad aspettare il mio turno per sostenere un esame. Così nel 2001 approfitti di una borsa di studio Erasmus per lasciare l'Italia. Ti si aprono tre opportunità: Reykjavik, in Islanda, Berlino e La Valletta, Malta. Nel frattempo, va precisato, avevi cominciato a studiare tedesco privatamente e tu scegli ovviamente allora la Germania. Dove vai a finire? Appunto a Berlino, no? Esatto, al Politecnico. E ci racconti l'impatto con questa città, con questa importantissima capitale europea, che rappresenta ormai un punto di attrazione per molti giovani del vecchio continente. È una città molto facile, soprattutto se si comincia con un Erasmus. Le infrastrutture universitarie sono semplici, ben organizzate, viene fornito un opuscolo di orientamento nella città, da come si apre un conto in banca fino a come frequentare i corsi presso le altre università della città, e vengono fornite diverse informazioni. Quindi lingua a parte, Berlino in realtà è aperta allo straniero. Sicuramente, sì. L'esperienza Erasmus si rivela uno shock culturale, parole tue, anche se precisi di shock culturali ne hai avuti tanti. Ce li riassumi in modo semplice e chiaro per far ben comprendere il gap Italia-Germania. Voglio parlare di tre. La prima è la struttura universitaria. A Berlino ci sono quattro università i cui corsi possono essere intercambiabili. Secondo è la mentalità aperta e liberale, la possibilità di svolgere diversi stili di vita. E la terza è sicuramente l'accessibilità della città, i mezzi di trasporto che viaggiano tutta la notte, una città sicura e delle infrastrutture veramente funzionanti. Restando in ambito universitario, è corretto affermare che la differenza principale l'hai riscontrata nel fatto che i professori tedeschi cercavano di far ragionare i loro studenti, non limitandosi a riempirli di nozioni. Sì, sicuramente. L'università tedesca ha diversi moduli di lezione. C'è la classica lezione verticale, quella che conosciamo anche dall'Italia, e un modulo che si chiama seminario, nel quale gli studenti sono invitati a scegliere un tema, tenere la lezione e moderare la conversazione con gli studenti. E questa è una cosa che mi è sempre piaciuta molto. E adesso avevamo accennato a una sorpresa, arriva la sorpresa, perché tu decidi di restare a studiare in Germania. Quale ruolo fondamentale giocano all'epoca due professori tedeschi in questa tua scelta? Mi appoggiarono fin dall'inizio, sia nello svolgere la burocrazia, sia nel motivarmi quando lo studio era particolarmente difficile, e sono ancora in contatto con loro a 3 anni di distanza dalla mia laurea. Mi chiedo se una cosa del genere succederebbe in Italia. Ma ce lo chiediamo anche noi, bisogna essere sinceri. Rimani quindi alla Technische Universität, giusto? Giusto. E una volta laureata, perché poi ovviamente concludi il tuo ciclo di studi da tedesca, provi a rientrare in Italia. Tu allora pensi, laureata all'estero, tedesco perfetto, beh, un posto per me nella comunicazione internazionale o nel turismo ci sarà in Italia, no? E invece, quante e quali risposte ottieni all'epoca dal tuo paese? Da neolaureata non ho mai ricevuto neanche un invito per un colloquio. Zero? Zero. Te lo sei spiegato? Sì, penso sarebbe stato molto complicato investire denaro per portarmi in Italia, insomma, per un volo aereo o cose del genere. O forse non era interessante il mio profilo, non lo so. Però, insomma, la differenza poi è che tu da expat italiana ti butti allora sul mercato del lavoro tedesco e lì le risposte arrivano. Trovi impiego in una piccola agenzia di comunicazione, prima come stagiaire, poi con una progressione di carriera costante fino a diventare PR consultant. E la domanda che sorge è: esiste e viene applicato il merito in Germania? Dunque, io sicuramente non ero raccomandata ed ho sempre ricevuto offerte di lavoro adeguate al mio livello professionale. Quindi direi di sì, che esiste la meritocrazia in Germania. Da neppure un anno hai fatto il salto a Scholz & Friends, una rete europea di agenzie pubblicitarie e di comunicazione. Beh, allora, come ci sei arrivata? Per selezione? Sono arrivata per una candidatura spontanea. Sono stata invitata al colloquio e ho avuto uno scatto di stipendio notevole e da allora sono presso Scholz & Friends. As simple as that, no? Direbbero gli inglesi. Hai mandato un curriculum, ti hanno selezionato, non conoscevi nessuno, comunque hanno apprezzato le tue capacità, giusto? Giusto. Di cosa ti occupi adesso? Di account management e di acquisizione clienti. Ultimamente sto anche cominciando a lavorare nell'ambito della comunicazione sociale, il corporate social responsibility, tra cui anche dei clienti come Coca-Cola Germania. Torniamo a parlare d'Italia, perché tu in realtà il contatto col tuo paese non l'hai mai perso, al punto che quando fai un bilancio di questi ultimi anni tiri fuori 3 offerte di lavoro che ti sono arrivate dall'Italia, no? Ce le racconti? La prima era un'agenzia in via d'avviamento che mi invitava ad un colloquio. Quando ho chiesto ulteriori informazioni sull'agenzia non ho mai ricevuto nessuna risposta e non mi sono mai presentata al colloquio. Cioè sono spariti? Sono spariti. Bene. La seconda era una compagnia di soluzioni logistiche per trasporti e spedizioni internazionali. Cercavano un account che svolgesse la comunicazione con il mercato tedesco. L'offerta si è rivelata uno stage per archiviare faldoni. Cioè venduta da lavoro, ma in realtà era uno stage, dovevi semplicemente, spieghiamo agli ascoltatori, mettere da parte e archiviare dei documenti. Esatto. Bene. E la terza invece è un'agenzia di Milano con la quale sono in contatto in queste settimane, che mi ha fatto un'offerta molto interessante e vedremo. E qui arriva, diciamolo pure, io lo sapevo già, la seconda sorpresa, perché forse sei il primo caso tu di expat, espatriata italiana, che sta forse per tornare in Italia. Io ti faccio tantissimi auguri, ovviamente, un grosso in bocca al lupo, e la speranza è anche, sulla base di questa ultima offerta di lavoro, che tu possa raccogliere la sfida, no? La sfida di un rinnovamento profondo del paese. Quale idee intendi apportare all'Italia? Dunque, premetto che il lavoro lo svolgerei principalmente da Berlino, muovendomi anche insomma sull'Italia. Sicuramente la cosa che più mi incuriosisce è la possibilità di avere una cosiddetta prospettiva esterna sui temi e compiti che mi verranno proposti. Nella mia esperienza in Germania ho capito che si tratta di una posizione privilegiata e che viene molto apprezzata, perlomeno da un datore di lavoro tedesco. Mi piacerebbe molto scoprire che anche il datore di lavoro italiano è così esterofilo o comunque aperto a una prospettiva diversa sui temi. Domanda di diritto, Laura, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? La vedo un po' seduta su successi un po' antichi, diciamo gloria antica. Vorrei che ci fosse più interesse in generale a credere nelle nuove generazioni, nel loro potenziale. E cosa cambierei? Sicuramente vorrei che ci fosse una base istituzionale che permette anche delle condizioni più favorevoli per il rientro. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Laura Bruzzone, trentenne al lavoro nel settore delle relazioni pubbliche a Berlino. Laura vi è giunta al termine di un percorso formativo iniziato a Genova e proseguito in Germania sull'onda della delusione verso l'offerta formativa dell'Ateneo Ligure. Laureatasi poi a Berlino, Laura ha provato a tornare in Italia una prima volta ricevendo 0 risposte. Da lì la decisione di cercare lavoro in Germania. Entra come stagiaire in una piccola agenzia di comunicazione dove fa rapidamente carriera. Da neppure un anno il passaggio in un'azienda più grande dove continua a occuparsi di relazioni pubbliche. E ci raggiunge ora in linea Beppe Facchetti. Buon pomeriggio. Buongiorno. Presidente di Assorel, l'associazione di categoria che raggruppa le agenzie di relazioni pubbliche. Allora, professor Facchetti, Laura denuncia che in Italia gli umanisti sono considerati un po' alla stregua di laureati in merendine, difettosi, afferma. Se la sente di smentirla? La preparazione umanistica rimane fondamentale, non sbagliamo su questo. Il caso di Laura è molto interessante per 2 motivi. Uno, l'esperienza Erasmus offre una possibilità, è una delle grandi cose dell'Europa di oggi. Secondo, che quando si apre una prospettiva, si apre perché lei ha un'esperienza diversificata. Essere stata in Germania ha quel qualcosa in più, la lingua, eccetera, che le consentirà sicuramente di trovare una buona occupazione anche in Italia. Quindi queste sono le 2 riflessioni vere da fare e da suggerire ai giovani. Però le dico anche una cosa, professore. Da più di un anno conduco questa trasmissione. Il problema più grosso per i giovani che studiano e lavorano all'estero è tornare in Italia. È come se le nostre aziende non riuscissero, ecco, Laura forse è un caso positivo ma molto raro, non riuscissero a valorizzare i profili internazionali. C'è un problema di ritorno enorme. Sì, questo avviene per tutti i settori, lo vediamo nel settore scientifico con particolare preoccupazione. Direi però di poter essere un po' più ottimisti, perché nel settore della comunicazione, che è in grande espansione, e in particolare delle relazioni pubbliche, che sono diciamo in controtendenza per il loro andamento rispetto all'insieme della comunicazione, cioè stanno andando meglio nonostante la crisi, in questo settore un'esperienza come questa e di carattere internazionale prima o poi, ripeto, si afferma. Secondo lei c'è un problema italiano di aziende di comunicazione troppo piccole, offerte di lavoro introvabili? Sì, ci sono aziende piccole, Ci sono però anche in Italia presenze multinazionali importanti che portano la cultura internazionale di cui stiamo parlando, quindi si tratta soltanto di sapersi guardare attorno e presentarsi come diversi. Laura, hai una domanda per il professor Facchetti. Come si trova il lavoro in Italia? Come trovo l'accesso al mondo lavorativo in Italia? Bisogna superare la barriera dell'indifferenza e la barriera della molteplicità. La domanda e l'offerta fanno fatica a incontrarsi per questo. Occorre insistere, tentare, presentarsi come qualcosa di diverso, che può dare qualche cosa di più. La laurea in comunicazione non è sufficiente, anche se è importante. Noi abbiamo dei dati statistici che ci dicono che la possibilità di trovare occupazione dopo la laurea in comunicazione è molto più ampia di quanto non abbia detto ultimamente anche il ministro della Pubblica Istruzione Gelmini, che ne ha fatto un esempio negativo, mentre in un esempio positivo. Grazie al professor Beppe Facchetti, presidente di Assore. Le domande a diritto per chiudere a Laura Bruzzone: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Provare. Bisogna prendere un po' di coraggio e saltare, però provarci sicuramente, è una bellissima esperienza. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Prosegue la nostra inchiesta sui programmi regionali che puntano a frenare la fuga dei cervelli. Andiamo in Molise. Vincenzo Rossi, dirigente del settore formazione regionale, che ha attivato un programma di Master and Back. Come regione abbiamo soprattutto inteso aiutare i giovani, nel senso che abbiamo pensato di mettere su un'azione per rimborsare i giovani delle spese naturalmente per la partecipazione a master, sia di primo che di secondo livello, e con un tetto massimo di 15.000 euro per master, finanziando anche però con un'indennità anche di frequenza, cioè volendo aiutare anche i giovani che devono naturalmente stare fuori e quindi mantenersi fuori, riconoscendo anche un'indennità di frequenza, un'indennità forfettaria addirittura giornaliera, per permettere a loro anche di sostenersi poi fuori. Naturalmente abbiamo esteso questo intervento a tutti i giovani molisani che partecipavano a questi master, sia in Italia, master svolti da università italiane, sia anche in Europa, quindi nelle università europee. Addirittura nel primo anno, questa è un'azione che siamo arrivati alla terza annualità, nel primo anno abbiamo permesso anche ai nostri giovani di partecipare a master anche fuori Europa. Ci sono stati anche giovani che hanno partecipato a master in America, sia in America del Nord che nel Sud America. Nell'anno appena finito, l'anno scorso, noi abbiamo avuto ben 102 giovani. Chi ha fatto master fuori, cioè nel senso in Europa, sono ben 70 i ragazzi che hanno partecipato a master all'estero. Con quali risultati? Da una parte abbiamo avuto il riscontro positivo che i ragazzi hanno potuto partecipare ai master con il nostro aiuto e si sono qualificati anche con esito positivo. La maggior parte ha conseguito il titolo di master. E la seconda cosa, stiamo pensando adesso di passare alla fase successiva, è quello di dire: vabbè, vi siete formati, però naturalmente per impedire a voi di andarvi a spendere questo titolo fuori, stiamo cercando di mettere in piedi un progetto complessivo, obiettivo giovani, in cui vi diamo la possibilità di spendere quest'alta formazione qui da noi, incentivando anche sia l'autoimprenditorialità, la possibilità di avere aiuti per mettere su idee imprenditoriali, anche per realizzarli concretamente nel tessuto economico molisano. Quindi voi in qualche modo aiutate questi ragazzi a formarsi all'estero e poi evitate un po' a priori la fuga dei cervelli, concretamente? Sì, per esempio abbiamo già, questo siamo arrivati ormai alla terza annualità, è un avviso che noi chiamiamo Giovani al Lavoro, che è rivolto ai giovani fino a 35 anni. Praticamente noi finanziamo lo start-up di impresa, dando ad ogni giovane un capitale iniziale di 30.000 euro per l'inizio di attività imprenditoriali. Abbiamo finanziato per adesso ben 33 progetti finanziati su un numero totale l'anno scorso di 146 progetti che ci sono pervenuti, e di questi ammessi sono stati 117. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.regione.molise.it settore formazione e lavoro. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it.